Ma dove lo... cioè, però si guarda, si vede solo lì. Gira la cosa, così gli altri vedono. Bravo. Vabbè, perché dovrei vedere anch'io. Sì, no, sì, c'è solo quella. No, devo fare un... faccio un disegnino. I nomi li ho già detti tutti, quindi no. Allora, torniamo a noi. Cibernetica, quindi che cos'è la cibernetica? È l'arte del timoniere, l'arte del governare, l'arte di controllare, l'arte di trasmettere cibernetica. Cybernetics, la cibernetica, è l'arte del timoniere, dell'antico kybernetes greco. Cioè, è l'arte di timoneggiare, no, come si dice? Di guidare, di regolare, di gestire, diremmo oggi, di diciamo di controllare i processi. Quali processi? I processi di creazione, trasferimento, distribuzione e interpretazione di questa nuova, di questo nuovo concetto, di questa nuova, chiamiamola pure sostanza, chiamata informazione. Nelle allora, come qual è il il dispositivo che in questa prima fase, in questa neonata cibernetica propone Wiener per costruire quindi una teoria che sia una teoria unificata sia dei processi, dei dispositivi naturali, cioè gli esseri viventi, sia dei nuovi dispositivi artificiali, no? Il concetto, la parola chiave, la parola magica di questa prima fase, questi primi anni delle conferenze di Messi è omeostasi. Dov'è la... Paolo, sta grafica è una roba da incazzare. È che non so la mano, ragazzi. Quanto può avere? È buono, è chiarino. E l'omeostasi, vedete, questa è una specie di omeostasi. Allora, qual è l'idea? L'idea base dell'omeostasi è che voi avete un processo, qualche cosa che succede dentro. Qua dentro questa è una... bisogna guardare lì, questa è una black box, cioè una scatola nera, vuol dire che dentro non sappiamo quello che, diciamo, succede, però sappiamo che c'è qualche cosa che entra dentro, è l'input, E poi sappiamo che c'è qualcosa che esce fuori. C'è qualcosa che esce fuori. Che è? Allora. Va bene, possiamo cancellare che lì facciamo il pomino, come sta per cancellare tutto? Sono più morto. Il nuovo file. No, sì, il nuovo, dai, parlo, sì. Che era per voi, non salvare questa roba, perché devo rifare il quadratino. Allora, che cos'è questo sistema? Questo sistema si chiama feedback. Un po' sottino. posso dire. Allora, che cosa significa? Il ricursivo significa che, cioè questo schemino significa che un dispositivo sarà considerato cibernetico nella visione della prima fase, quando sarà in grado di realizzare uno schema di questo tipo, cioè uno schema nel quale ciò che esce dalla mia scatola nera influenza ciò che entra. Quindi per questo il termine inglese è più efficace, perché feedback vuol dire nutrire all'indietro. Il significato di nutrimento è più pregnante, più specifico della parola italiana azione. Però il retro italiano corrisponde più o meno al back inglese. Retroazione, cioè quando io ho un processo in cui di volta in volta gli esiti di questo processo non si disperdono, diciamo, non rimangono neutri rispetto ai successivi ingressi, rispetto ai successivi dati che vengono immessi dentro a questo, diciamo, sistema, e quindi questo sistema è, attraverso questa idea, attraverso l'idea di feedback, attraverso il procedimento di feedback o di retroazione, che il sistema si dimostra capace di autoregolarsi. Perché? Perché se ciò che esce, se l'uscita, l'output, influenza il nuovo input, ciò significa che quello che questo sistema ha prodotto, produce di volta in volta ai singoli stati, lui può tenerne conto, perché può reimmetterlo e quindi cambiare, modificare, alterare, gestire, governare. Questo è un governo, ovviamente questo è un, come dire, principio molto, diciamo, generale. I risultati di questo primo periodo di attività delle conferenze di Messi vengono sintetizzati in qualche modo da Wiener in un libro che esce, non mi ricordo se nel 50 o nel 52, se andate su internet ovviamente lo trovate sempre, qui negli appunti non ce l'ho scritto, perché negli appunti Caronia fa il figo, perché dice andiamo a vedere quali sono i concetti, poi durante le lezioni, oltre ai concetti di qualche anni, qui c'è, c'è scritto il titolo del libro, ma non c'è scritto l'anno. Comunque, non, io sono in dubbio che sia del 50 o del 52, non ha molta importanza. Il titolo inglese è The Human Use of Human Beings, l'uso umano degli esseri umani, The Human Use of Human Beings, l'uso umano degli esseri umani. Ti vai a scriverlo tu, che ti scrivi meglio di me. The Human Use of Human Beings. Di Wiener? Wiener. Scritto da Wiener, Norbert Wiener. The Human... Ce l'ha E? No. Use of Human Beings. Che ci hanno tradotto in... Beings. G.S. The Human Use of Human Beings. L'uso umano degli esseri umani, la traduzione italiana è cibernetica. Non so se c'è ancora in giro questo libro. Comunque questo è il libro classico, il classico di Wiener sulla cibernetica. Il concetto base di questa prima fase è, abbiamo detto, quindi il feedback, o se vogliamo dirlo con un'altra parola, la omeostasi. Se sei bravo mi scrivi omeostasi pure di sotto, omeostasi. Omeostasi è un anche questo è un neologismo greco che deriva, no, è greco-latino, perché la prima parte è greca, la seconda latina. Omeo è è come omeopatia, quindi ciò che è simile. Estasi è l'equilibrio, stasi. Era anche il nome del servizio segreto della Germania Est, ma per dei motivi diversi, non c'entra nulla con lo stasi latina. Quindi l'omeostasi è qualcosa, come dire, è il risultato del feedback. Il feedback è il procedimento, la retroazione è lo strumento. Il risultato è l'omeostasi. Curiosamente, pochi anni dopo, omeostasi è uno dei termini classici della narrativa di Philip Dick negli anni 60. Mi fa la cosa di scrivere sotto Philip K. Dick, grazie. Philip K. Dick, grazie. Philip K. Dick. Nella narrativa di Philip Dick, l'omeostasi rappresenta esattamente quello che lui intende come principio di funzionamento delle sue macchine intelligenti. Cioè, l'omeostasi è l'origine del termine è biologica. Gli organismi biologici sono organismi omeostatici. Perché? Perché realizzano un certo equilibrio con l'ambiente. E come lo fanno sulla base, dice Wiener, di strutture di feedback, cioè di processi di retroazione. Un tipico esempio di dispositivo di omeostasi, per esempio, è la temperatura del sangue nei mammiferi. La temperatura del sangue nei mammiferi è variabile, non che altri animali non hanno meccanismi di omeostasi diversi, negli anfibi e nei pesci funziona in modo diverso, ma nei mammiferi funziona così. La temperatura corporea varia in relazione alla temperatura esterna, cioè tende ad alzarsi quando fuori c'è freddo, tende relativamente ad abbassarsi quando fuori c'è caldo. Perché la febbre è considerata, perché la febbre è un indizio di malattia? Perché è l'indizio che il meccanismo di omeostasi si è guastato. Cioè, quando io comincio ad avere la febbre a 40, quando fuori c'è il soleone, o quando sto nella mia bella casa riscaldata, che fuori c'è 0 gradi, ma dentro c'è 24 gradi, vuol dire che c'è qualcosa che va male, perché quello che è successo a Marta recentemente, quindi omeostasi è un concetto della biologia che Wiener prende a prestito, e quindi vedete che c'è già questa idea di costruire, molto rosa, certo, perché a noi ci può venire da ridere al pensiero che un missile intelligente possa essere considerato un qualcosa di analogo ad un meccanismo biologico, però questa era la loro, diciamo, idea, cioè l'idea di applicare meccanismi degli esseri, come dire, viventi ai prodotti artificiali. Allora, il significato culturale di questa cosa è bivalente. Perché? Perché da un lato si tratta di un tentativo che va contro la tradizione, la tradizionale separazione tra naturale e artificiale, no? Dice no, guardate che l'artificiale, quando è ben fatto, imita la natura, mette in atto dispositivi dello stesso genere, anzi deve costruire processi simili a quelli, diciamo, naturali, e quindi da un certo punto di vista è un meccanismo, è qualcosa che tende a, quindi, a diminuire lo scarto, a dare un tentativo di visione unificata tra natura e, diciamo, cultura. Dall'altra parte però, attenzione, si paga un prezzo perché lo strumento culturale di questa cosa è la teoria dell'informazione di Shannon Weaver, utilizzata in senso estensivo. Attenzione, non c'hanno tanto colpa Shannon e Weaver, i quali non hanno mai pensato di scrivere un libro parlando di informazione o di... Loro, The Mathematical Theory of Communication, la teoria matematica della comunicazione, il loro problema è quello che ho detto prima, cioè spiegare come si trasmettono su certe linee fisiche, che possono essere, abbiamo detto, lettere o ricavi, certe sequenze di simboli, e come si può fare in modo di come potrebbe ottimizzare, migliorare questa comunicazione in modo da ridurre il rumore e quindi aumentare la parte significativa, la parte che ha significato. Ma il problema prioritario di Shannon e Weaver è chiaramente un problema di matematica applicata, cioè fornire dei modelli matematici perché gli ingegneri possano lavorare bene e costruire sistemi più efficienti di lavorazione. La generalizzazione indebita è più responsabilità di Weaver, per certi versi anche di quelli che non facevano parte delle conferenze di Messi, cioè di Crick e Watson, degli scopritori della struttura del DNA. È in questi altri campi che questa idea di informazione all'inizio così ben delimitata e chiara come strumento per risolvere un problema di ingegneria applicata comincia a diventare un paradigma. Diciamo che le cose principali, allora stabiliamo i quattro, allora diciamo, concetto fondamentale, abbiamo detto omeostasi o feedback da un punto di vista concettuale. I dispositivi cibernetici della prima fase sono quindi dispositivi omeostatici, dispositivi capaci, con tendenzialmente sempre più capaci, parliamo del modello concettuale, non delle cose realmente realizzate, dispositivi tendenzialmente capaci di aggiustare, regolare, ridirigere la propria relazione con l'ambiente in base a una considerazione degli effetti, tengono conto degli effetti, sono dispositivi che tengono conto degli effetti, quindi non sono dispositivi ciechi, non continuano a fare quello che fanno sempre, non sono il cannone che più roba gli metti dentro lui spara sempre alla stessa distanza a seconda, una volta che hai definito l'alzo, se la forza motrice, cioè se il cannone è tutto in ordine, appunto fa sempre la stessa cosa, che poi dopo succede, magari non ci frega nulla. I dispositivi omeostatici sono dispositivi invece che con quel sistema del ciclo dovrebbero riuscire a... se cancelliamo facciamo una tavoletta degli strumenti, scrivi tu che si rimerga, io faccio schifo, mi fai da assistente oggi, i cori li fini. Allora, gli strumenti, allora tieni devi scrivere su quattro righe, quindi non scrivere troppo grosso. Allora, il primo è quindi la teoria dell'informazione. Scrivi teoria dell'informazione. Informazione. Facciamo una parentesina e mettiamo chi sono. Sono Shannon e Weaver. Allora, la teoria dell'informazione, cioè il libro di Shannon Weaver del 49, è il primo strumento grande di questa ondata della cosa. Weaver, chiudi la parentesi, bravo. Il secondo punto sono i computer binari. In questo ambito di studi si cominciano a progettare i veri computer, infatti il primo ENIAC è del 48, è il primo mega computer costruito sulla base delle robe che vi ho detto prima, sulla base degli studi britannici del gruppo britannico di Enigma e sulla teoria di Turing. Ma chi costruisce queste cose è von Neumann. Si fa una presenza di von Neumann che è sotto bravo, von io è. No, alla tedesca, grazie. Neumann con due N finali. John von Neumann. Von Neumann è il vero, abbiamo detto, l'erede di Turing, è il vero costruttore, cioè quello che ha studiato l'architettura dei computer binari. Computer quindi digitali. C'erano stati in quel periodo anche, c'era stato qualche tentativo di costruire computer analogici, perché bisogna dire non è che la digitalità nasce così dal cazzo. Computer analogici erano più semplici da fare perché utilizzavano quantità continue e non discrete come correnti che passavano in certi circuiti o anche leve, quindi basati su strumenti analogici, non discontinui, non continui e non discreti. Ma rapidamente von Neumann si rende conto che per costruire qualcosa che vada bene, che abbia la duttilità del progetto architettonico che lui ha in mente, è meglio usare computer basati su un'ottica binaria, quindi totalmente digitale. Il terzo tema, è un tema di cui non vi ho parlato ancora sinora se non di sfuggita, viene costruito un modello neuronale. Perché è importante il modello neuronale? Questo è uno dei ponti che sono lanciati tra lo studio dell'organico, lo studio della vita e lo studio dell'artificiale. Neuronale, bravo. Allora, tra parentesi, il signore che fa queste cose è questo signor McCulloch. Allora, McCulloch si scrive M.C. Culloch. No, con la C, con la C, Culloch. McCulloch costruisce il modello neuronale in un famosissimo articolo in cui spiega il meccanismo di visione della rana. Spiega come sono fatti i neuroni della rana e come la visione, questo meccanismo della visione della rana attiva i muscoli della lunga lingua. Diciamo della rana, perché il problema è questo: quando la rana, quando gli passa una mosca vicina alla rana, cioè una roba, se voi non so se avete mai visto una rana, fa una roba e questa cosa in un nanosecondo non si viene neanche, no, perché è rapidissima. Voi provate a buttare, a mettere la rana in un posto dove non ci sono mosche e gli buttate dei pezzettini di fuliggine, di cosa così, che cose che sembrano mostre, assolutamente uguali identiche, perché sembrano mostre. La lingua della rana non scatta, non la ingannate così facilmente, nonostante che sembrerebbe a noi esseri umani che quei pezzettini lì sono totalmente simili a una mostra, certo si muovono più una cosa. Allora, McCulloch nel modello neuronale dimostra, o comunque tenta insomma di dimostrare, che al di là di altre robe tipo, che ne so, l'odore, cioè, in realtà che probabilmente nella rana funzionano poco, è proprio un meccanismo visivo che funziona. La rana è in grado di discernere tra il moto, il neurone della rana, non le sue, perché sulla retina della rana molto probabilmente il pezzetto di fuliggine funziona e ti dà attiva gli stessi cogli e gli stessi bastoncelli della mosca. È il neurone della rana che è in grado di interpretare la differenza di movimento tra la mosca, che ha un movimento particolare perché si muove bla bla, cioè, e il pezzetto di fuliggine o l'altra qualsiasi, anche il pezzettino di carta nero che oscilla, no? E quindi non è, c'è a livello neuronale, nel meccanismo di neuronalità, ecco perché il modello è neuronale, non puramente retinico. Con gli studi di McCulloch di questi anni, fine 40, primi 50, si comincia a capire che negli esseri viventi, quindi anche negli esseri umani, la visione è ben più che uno strumento di meccanica registrazione a te, quello che vedo fuori. Col cazzo, non è così. Non si vede ciò che c'è fuori. Si vede ciò che i nostri neuroni, cioè la nostra mente, la sede fisica dei processi mentali, costruisce come oggetto. L'oggetto è ciò che a noi sembra di vedere come risultato di una passiva registrazione della realtà, non è affatto una passiva registrazione, è una creazione. E noi vediamo le cose in base a dei modelli. Ecco, questo, gli studi di McCulloch sono... se ce la facciamo a fare, se c'hai fatto per la quarta riga, allora ovviamente tutto questo viene riunificato da una, chiamiamola, visione generale, la visione globale, tutte queste cose messe insieme, la diretta di informazione, cioè, quindi diciamo visione globale, no, visione generale, visione complessiva scriviamo, va, visione complessiva. La visione complessiva ovviamente chi la fa? La fa Wiener, certo, sì, la parentesi, mette anche un'ora, no, penso che male, no, c'è una I prima della R. C'è una I prima della R. Wiener. Per questo alla tedesca si pronuncia Wiener. I-E. locative nera. Alla tedesca questa roba qua si legge Vina, alla inglese Wina, però la I è sempre I, ma in tedesco è IE, Nord Wina. Quindi questa è, diciamo, questo è all'incirca, come dire, un breve riassunto della prima fase, insomma, di dire. Allora, parliamo un attimo della visione che dà Kathryn Hales di questa prima fase della cibernetica. Il contributo fondamentale della Hales alla visione di questo campo di studi, perlomeno in questa prima fase, è questa, cioè la Hales sottolinea che il punto, cioè tutti questi studi su questa nuova, virgolette, scienza, sottintendono una visione del soggetto umano abbastanza tradizionale. Adesso io finora ho messo in luce le discontinuità, quindi per esempio l'emergere di questo nuovo paradigma dell'informazione, eccetera. Ma al di là di questo, dice la Hess, guardate che la visione tradizionale che ha del soggetto Wiener è, cioè, la visione del soggetto che ha Wiener è una visione tradizionale, cioè Wiener pensa al classico soggetto liberale, cioè all'essere umano capace di una elevata, diciamo, avente una elevata funzione di scelta tra opzioni diverse, perché è convinto lui di avere gli strumenti culturali, perché è dotato del retroterra culturale tale da rendere questa scelta diciamo possibile, no? Diciamo, questa è la classica concezione dell'individuo borghese come soggetto di libertà. Adesso già il fatto che io dica individuo borghese vi fa capire che è ovvio che in questo discorso manca un elemento. Diciamo, in realtà quello che, come dire, questa elevata capacità di scelta che l'individuo ha o vorrebbe avere, quindi la capacità di avere di fronte opzioni differenti e poter scegliere l'una o l'altra soltanto sulla base di un discorso, diciamo, tendenzialmente disinteressato di propensione individuale verso l'uno o l'altro dei modelli culturali, verso l'uno o l'altro delle scelte, presuppone in realtà qualche cosa che il teorico del liberalismo non ha mai detto, perché lui è superiore a queste cose, ma dietro c'è evidentemente la questione bassamente materiale di quanto debito hai, di qual è la tua forza economica, di qual è la tua qualità, perché tu potresti benissimo, perché il soggetto borghese, che sia onesto o che sia disonesto, non conta nulla da questo punto di vista. Può anche essere un santo e non essere solo un massazzone di anemone che preventivava già come dare le case agli altri stronzi del centro politico, ma anche se fosse una persona più buona, diciamo, del mondo, può decidere, dico una cazzata, insomma, se andare in vacanza alle Barbados o nella sua villetta di Moncalieri, perché ha la possibilità di farlo, insomma, detto come dire banalmente. Quindi che questa idea che quindi detto in altri termini c'è una forza del vincolo ambientale e contestuale di vario tipo, di ordine fisico, economico, politico, sociale, c'è un contesto che preme su di te, e preme in maniera diversa a seconda della tua posizione nella scala sociale, della tua posizione dentro come trasmuntivo. Se tu sei uno che trasmuntivo lo controlla, perché sei tu che ti hai dentro i soldi e sei tu che hai, insomma, se la fabbrica è tua, se la fabbrica o la software house o quello che sia, insomma, se l'attività imprenditoriale è tua e tu non sei solo un imprenditore di te stesso, come oggi capita sempre di più, insomma, che queste forme di autoimprenditorialità non c'entrano nulla con l'imprenditorialità classica, insomma. Se tu muovi sufficienti capitali, allora la tua libertà di scelta è di un certo tipo e quindi sei un soggetto di un certo tipo. Se non ce l'hai, sei un soggetto di un altro tipo. Però il modello culturale che viene elaborato a partire dagli individui del primo tipo, diciamo, dal punto di vista della classica borghesia, adesso non c'è più quella borghesia lì, però quella classe sociale è quella che ha costruito la cultura nel 700, nell'800, sulla base della quale ancora noi oggi valutiamo le cose. Quindi se quella, come dire, borghesia lì, quella borghesia lì ha costruito modelli umani, modelli di soggettività umana che si applicano a tutto il resto del genere umano, a prescindere da, cioè, voglio dire, quello che Wiener non fa in questa, quindi fa un grande lavoro, è una cosa importantissima da un punto di vista, però che cosa fa? Non riesce a portare sino in fondo alcune delle premesse che lui stesso aveva contribuito a portare avanti, perché nel momento in cui tu tenti di elaborare un modello nel quale nel quale la natura e la cultura non sono drasticamente separati, non sono ontologicamente su piani diversi, perché ti rendi conto che la cultura non è altro che, virgolette, la nostra biologia, cioè la nostra natura, come aveva intravisto già Diderot nel XVIII secolo. E allora questa cosa potrebbe andare, no? Avrebbe potuto andare in una direzione, si sarebbe dovuto porre sulla base di queste cose il problema di come costruire un nuovo modello di soggettività che tenesse conto di questa, e quindi tenesse conto dell'insieme di tutti i vincoli, compresi quelli economici, sociali, eccetera, eccetera, che costruivano la soggettività, e quindi di come, senza magari direttamente tradurlo in virgolette politica, cioè in attività, in prassi, ma perlomeno come quadro concettuale ci dicesse: bene, tutto questo mi porta a ritenere superata la teoria del soggetto individuale borghese classico. Invece no, il fallimento di Wiener, lo scacco di Wiener, sta nell'avere iniziato questo nuovo processo, ma nell'avere tentato di rinchiuderlo dentro dispositivi culturali che non tenevano conto delle sue stesse scoperte, cioè delle stesse cose nuove che venivano. Cioè, detto in altri termini, il modello della soggettività tradizionale borghese potenzialmente entra in urto con le prime nuove teorizzazioni, anche della prima fase della cibernetica, ho diversi nemici culturali, ogni tanto li confondo, della cibernetica, ma a causa dei limiti intrinseci della formazione di Norbert Wiener, messi in modo anche drammatico, ci sono dei passi di The Human in cui lui, cioè, non è mai in discussione l'onestà o la disonestà, la sincerità o l'insincerità di queste cose. Poi certamente ci sono i mascalzoni, ci sono quelli che ci provano, voglio dire, se fosse un intellettuale, ci sarebbe il Gatti avrebbe preso a schiaffi, perché ovviamente è un disonesto prima intellettualmente, cioè un meschinetto proprio. Però non è detto che uno sbaglia perché è così, no, sbagliano anche, cioè, come dire, l'errore sta anche nelle elaborazioni situazioni più, diciamo, sincere, più da, cioè, però hanno quel limite di, allora Wiener sicuramente è uno a cui nessuno può dire, è un personaggio che merita grande rispetto, ha fatto grandi cose, molto, diciamo, interessanti, nessuno lo può svillaneggiare, però, come dire, aveva questo limite, aveva il limite di continuare a ritenere, vedere il processo della soggettività come, secondo la vecchia tradizione filosofica che da Kant va all'idealismo, cioè, perché anche Kant e Fichte, Schelling e Hegel la vedono così, perché ci raccontano una storia che non esiste, una storia astratta, una storia in cui io sono sempre solo di fronte a, come dire, me stesso e ai miei grandi ideali e alle mie grandi funzioni superiori, ma dove? Non sono mai solo io di fronte a me stesso in quel bel empire delle idee e quindi posso stabilire le idee morali, le idee cognitive, quando sono buone, quando non sono buone, scegliere, diciamo, decidere. Io sono in una relazione con altri e se la mia relazione con altri è che io ho una relazione con voi per cui occupo una posizione, è chiaro che tutto questo sarà condizionato da questa cosa e io magari nel mio comportamento, parlo di me, faccio di tutto per cercare di minarla, al di sotto questa relazione di potere che c'è tra me e voi, e quindi per esempio cerco di fare in modo che voi in primo luogo vi accorgiate che io esercito del potere su di voi e che però ve lo dico, sono cosciente di questa cosa, poi cerco di fare qualche altra cosa per cui le cose si equilibrino, ma so che non posso. Allora la mia relazione con voi è questa, la mia relazione con l'Accademia è una relazione di una istruzione che mi tiene per il collo così e che mi dice ti do tu 2.000 euro per fare questo corso e stati buono che sono già troppi e non rompo i coglioni. Cioè, è tutto questo insieme di cose, questo insieme di diciamo, relazioni pratiche, concrete, nella prassi, in ciò che uno fa nella vita quotidiana, che costruiscono, che influenzano, che costruiscono il contesto nel quale io costruisco la mia come soggettività e voi la vostra e ognuno la sua, no? Cioè questa è la... Allora, il modello di questa prima fase della, diciamo, cibernetica poteva essere un buon inizio, un buon stimolo per mettere in discussione esattamente questo modello, cioè il modello della classica soggettività neutra, acontestualizzata, che vede il soggetto come una specie di sostanza o di assoluto. Ecco perché io sono contro l'universalismo e sono contro l'essenzialismo, perché l'universalismo e l'essenzialismo sono le abitudini di pensiero che poi generano questi concetti qua, cioè ma noi, la nostra anima, la nostra psiche, il nostro spirito, ecco perché ho una idiosincrasia verso certe parole, non che lo so bene che si può usare il termine spirito senza alludere a una sostanza, però nell'uso di questo termine c'è dietro secoli di cultura che ci hanno abituato a vedere lo spirito, soggettività, la cosiddetta interiorità, eccetera, come un qualche cosa, come una via di regno, come un bel giardinetto in cui il mio io può fare quello che vuole e lo fa in base ai più nobili principi. Non esiste. Questo giardinetto non esiste, non esiste nessun giardinetto, non esiste nessun posto in cui io sono davvero libero. E la mia libertà è condizionata e relativa a quello che mi capita intorno e alle relazioni che io costruisco intorno, relazioni che non sono libere neanche quelle, perché sono determinate dal tuo... Quindi primo, l'uomo è un essere essenzialmente sociale, l'individuo è qualcosa che viene dopo la socialità, primo. Secondo, questa socialità è largamente, la maggior parte delle volte, eterodiretta, non è nella disponibilità di me singolo o di me gruppo sociale, di me come gruppo di persone che condividono lo stesso destino, non è nel nostro potere immediatamente, date le cose come sono date, non è il nostro potere decidere e costruire, plasmare noi come la teoria, per questo la teoria della società borghese è così odiosa. Perché e tutte le teorie di questo tipo sorte e nate dietro a queste cose, perché ci prendono per il culo due volte, perché da un lato ci tratteggiano questo regno della libertà, dell'autonomia, dell'autorepresentazione. Cioè i borghesi, sì, quelli che in un tempo erano i borghesi, i capibanda oggi, perché il regno di oggi è essenzialmente mafioso e si è trasformato, sono quelli che sono, quelli, diciamo, gli eredi dei borghesi di ieri. Loro certo che poi loro si autogestiscono, si fanno un sacco di robe auto, cazzo. Cioè, poi al fondo anche loro sono schiavi di una certa logica, però come dicono, hanno più libertà di noi, non ci sono figli, hanno più libertà di noi. E però il modello culturale che costruiscono dice no, ma voi siete liberi quando siete liberi anche di noi. Cioè, questa cosa è irritante, perché se tu c'hai uno schiavo, cazzo, sei mio schiavo, devi lavorare per me, ti mettono le catene, ti frusto, lavorare, sei uno schiavo, basta, chiuso. Quando tu assumi un operaio, un lavoratore, un precario al call center e fai finta che sia tuo uguale, nel modello, nel concepere in testa, è il tuo imprenditore, quello che ti dà il lavoro, e tu che vai a fare lavoratore con un contratto semestrale, siete uguali. Giuridicamente, il sistema giuridico, vedi che siete uguali, siete sullo stesso piano. L'abolizione della schiavitù, già con la guerra civile americana, non ha abolito gli schiavi, ha soltanto cambiato nome, ha cambiato le condizioni, le cose, ha quella schiavitù, ma è una, cioè, perché? Perché non ha alterato le condizioni, anzi, la guerra civile americana, ve l'ho già detto, è stata voluta, fatta, eccetera, dal nuovo capitalismo industriale americano contro proprietari del sud, perché volevano finalmente della forza lavoro che non c'era negli USA, non c'era, c'erano milioni di schiavi, di persone nere che andavano benissimo a fare il nuovo proletariato, tenute occupate da questi stronzi proprietari terrieri del sud che li tenevano a raccogliere il cotone. Bisognava con una guerra, con una cosa, liberare queste masse, liberarle dalla schiavitù per farle emigrare, e i neri fecero, dopo il 1870, fecero a centinaia di migliaia la strada, ripercorsero all'indietro il Mississippi per arrivare, e fecero di Detroit e di Chicago due delle più grandi città nere degli USA occidentali. Tutte le sud stavano i neri, non c'erano pochissimi neri, vedevo di Washington dai 90% di popolazione nera, per costruire il nuovo proletariato americano, per costruire il capitalismo americano. Questo che mi fa rabbia a me, che in queste condizioni qua mi pigliano per il culo e mi dicono no, ma io e te siamo uguali, abbiamo lo stesso modo di pensare, certo, ma abbiamo la stessa biologia, caro capitalista, caro Berlusconi, caro funzionario ministeriale, non abbiamo nient'altro che la stessa biologia, perché dal punto di vista dei rapporti sociali e della relazione sociale io e te siamo disuguali. Io te sono uguali, e tu limiti con tutto quello che fai, ogni tua azione è fatta per limitare la mia libertà e quella di tutti quelli come me. Quindi, con tutto il rispetto per Wiener, dobbiamo concludere che ha tentato pure lui di venderci merce avariata. Per fortuna che ci ha messo intorno un po' di specie e cose anche utili, ingredienti utili che sottratti a quel modo di pensare. Vedremo la prossima volta che già gli immediati successori di Wiener, subito dopo la sua morte, tentarono, non nello stesso modo, non con la stessa intenzione, così confesso e diciamo, mi scuso piattamente, banalmente politica, che ho fatto io prima, ma in maniera diversa, però quelli della seconda ondata della, diciamo, cibernetica cominciarono a tentare, almeno da un punto di vista del modello culturale, di mettere, diciamo, di costruire un quadro culturale in cui queste contraddizioni fossero meno, perlomeno fossero meno stridenti o venissero superate. Basta. Quello di oggi, ben siamo arrivati, cibernetica fase 1. La prossima volta faremo cibernetica fase 2 e fase 3.